Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko, 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica da Via Zanardi in Bologna. Città Fujiko Live Club, la trasmissione che è iniziata in questo momento con la solita sigla Derek and the Dominos Laila, e che si propone di farvi ascoltare per un paio di orette musica registrata dal vivo. Naturalmente, oltre all'etere, potete tranquillamente recarvi sul sito Città Fujiko Radio, cittafujiko.it, e scaricare la app che vi permetterà di ascoltare questa trasmissione, ma tutte le trasmissioni di Radio Città Fujiko on air, vale a dire dal web, potete scaricare tranquillamente la app. E Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità che quest'oggi è in ritardo, nel senso che la novità che vi propongo è ad opera di una band che è stata in concerto qui a Bologna lunedì sera, quindi sono un po' in ritardo, ma l'album mi è arrivato solamente in tempi non utili per la trasmissione della settimana scorsa, per cui vi propongo questi Codaline o Codaline, non ho mai capito bene come si pronunci, che hanno pubblicato un album dal vivo molto interessante che si chiama Our Roots Run Deep, e che contrariamente a quanto fanno di solito i Codaline, io li chiamo così, è un album registrato in maniera acustica, è un album parecchio soft. I Codaline o Codaline è un quartetto che arriva da Dublino, è attivo dal 2012, ma già dal 2005 la band si era formata come 21 Demands, poi nel 2012 cambiarono il nome, cambiarono parzialmente anche l'approccio musicale, anzi non tanto parzialmente, e da allora, dal 2012, hanno fatto quattro album. Quello che vi propongo, appunto, il primo album live della loro discografia, si chiama Our Roots Run Deep, lo ripeto, è stato registrato al Three Olympia Theatre di Dublino, in Irlanda, l'8 marzo scorso, quindi è pasta freschissima, diciamo. Oltre al quartetto In questa occasione abbiamo aggiunto una violoncellista e un secondo tastierista che in realtà poi è il fratello del chitarrista, ma queste sono cose familiari che non interessano. Volevo solo porre l'accento un attimo su l'Olympia Theater di Dublino, che adesso si chiama Three Olympia Theater perché appunto è stato sponsorizzato dalla omonima non so come si dica, dall'omonimo gestore telefonico, ecco. E quindi ci andiamo ad ascoltare questo Codaline, che appunto dei quali potete trovare sulla rete e anche su Amazon nella parte della musica online, un intero concerto elettrico che secondo me è molto più interessante di questo, premesso che l'album, che lo ripeto, si chiama Our Roots Run Deep, è un ottimo album, però non è la vera essenza dei Codaline. Andiamo con tutte, dopo con tutte queste chiacchiere, ad ascoltarceli. Il pezzo che ho scelto per voi si chiama High Hopes, loro sono Codaline, era la registrazione dell'8 marzo 2022. Broken bottles in the hotel lobby. It seems to me like I'm just scared and never feeling it again. But I know it's crazy to believe in silly things, but it's not that easy. I remember it now, it takes me back to when it all first started. But I've only got myself to blame for it, and I've stepped out. It's time to let it go, go out and start again. But it's not that easy. Yeah, but I got Grandi speranze, high hopes per questi Coda Lynn in finale di concerto, immortalato questo concerto appunto nell'album Our Roots Run Deep, un quartetto come dicevo di Dublino e registrato a Dublino, per cui il pubblico, come avete sentito, partecipa attivamente alla questione. E Dublino, come sapete tutti, è la capitale della Repubblica Irlandese ed è situato sul fiume Liffey, che lo attraversa e lo divide praticamente in due parti. Sono più di 554.000 persone, dei quali molti giovani, e quindi quando ci sono molti giovani di mezzo ci sono anche molte bands, molti cantanti, e infatti Dublino è un'autentica fucina di bands appunto e di cantanti. Onore al merito anche per il fatto di ospitare la James Gate Brewery House, che è la birreria che produce oramai da diversi secoli la Guinness, che se non è la miglior birra del mondo cala veramente pochissimo. Di Dublino parleremo in questa prima parte, anzi non parleremo, ci ascolteremo brani registrati a Dublino, che come dicevo è molto attiva dal punto di vista musicale, per cui ci sono sempre un sacco di concerti, e a parte quando ci vado io, ma questo è un altro discorso. E quindi ci ascolteremo appunto registrazioni effettuate nella capitale irlandese, ma non da artisti delle isole britanniche, solo artisti al di fuori di queste isole, tutti nordamericani fra parentesi, mi sono accorto poi alla fine che praticamente è una sorta di greatest hits, perché tutti coloro, tutto ciò che ci ascolteremo da qui in avanti, a parte la prima canzone, tutto è ad opera di musicisti e bands famosissime, quindi veramente una sorta di greatest hits. Andiamo ad ascoltarci proprio il personaggio meno conosciuto. Si chiama Joe D'Urso, lui viene dal New Jersey, è uno springsteeniano convinto, è attivo dal 1991, alterna la propria carriera solista in veste acustica con quella insieme alla sua band che si chiama Stone Caravan. Nel 2004, anzi prima nel 2001 e poi nel 2004, ha pubblicato due serie di bootleg ufficiali, ogni serie consta di 6 CD per un totale di, anzi 4 CD, scusate, per un totale di 8, e la prima è stata pubblicata nel 2001, la seconda nel 2004. Il problema reale di questi album è che sono stati mixati, remixati un po', come si dice dalle nostre parti, alla carlona, nel senso che non è proprio il massimo del remixaggio che si poteva fare. Comunque, andiamo ad ascoltarci questo volume 2, disc 5, cioè è il quinto disco di questo secondo volume, compresi anche naturalmente i primi 4. Si chiama Greening Across the UK Ireland, Various City, November 2001. È stato appunto registrato fra Gran Bretagna e Irlanda, e i primi due pezzi sono proprio irlandesi, sono stati registrati il 6 novembre del 2001. Il pezzo che ci andiamo ad ascoltare è proprio il primo di questo dischetto, che risponde al nome di Where Does Love Go. Lui si chiama Joe D'Urso. Thanks a lot. It's called Where Does Love Go? I took off at the end of February and I landed in early June. That time alone I could have traveled from the earth to the moon. And I wanna know. Hometown, swearing I'd never get stuck like George Bailey, though he had a good life. I was searching on the stars from the time I was a boy, and somehow, some way, the road became a home. And I wanna know. A fingertips and it danced in his palm. He sang the right words, but it was the wrong song. He took her love for granted, never watered the ground. And a strong wind came blowing, blew her right out of town. I'm a wonder, a wonder I must say. Finally learn the life, love and death, the principles we serve with each and every breath. And I wanna know where love goes. And I dal meno famoso, vale a dire Joe D'Urso, quello che è probabilmente il più famoso, Bruce Springsteen, in questo caso insieme alla Sessions Band. Siamo a Dublino naturalmente, il 17, 18, 19 novembre 2006 sono le ultime date del tour che Bruce Springsteen, tour europeo che Bruce Springsteen fece in quell'anno e che lo portò anche in Italia per ben 7 date. Naturalmente una musica completamente diversa dalla sua solita, tutti i brani tradizionali, tipo quello che ci siamo ascoltati, che appunto si chiama Jacob's Ladder. Altra band famosissima, ha registrato un doppio album molto bello che si chiama Semplicemente Live. Il secondo dischetto si apre con questo brano che si chiama What's the Frequency, Kenneth? Naturalmente sto parlando di R.A.M. What's the frequency, Kenneth? Is your bent to dream? sales, got torture film. I drive a GTO, I wear a uniform, all out of government law. I'm once a millionaire, prizes. I'm sick of sleeping on the sidewalk. No more beat my brains, no beat my brains. With liquor and drugs, with liquor and drugs. I'm just a modern guy. You know I had it in the year before. I got lost for life. I got lost for life. Here we go. Lost for life. Lost for life. Lost for life. Inutile parlare di Iggy Pop, tutti lo conoscono, tutti sanno del suo passato con gli Stooges e lui è un grandissimo della musica rock di tutti i tempi, oserei dire. Nel 1993, esattamente il 30 luglio, era ospite di un festival che si svolge annualmente a Dublino, si chiama Fairly Festival, non so se si pronuncia esattamente così perché è una parola gaelica. E festival che tutti gli anni propone ottimi concerti, appunto tipo quello di Iggy Pop, dove ha cantato anche questa che non avrebbe bisogno di presentazioni, ma per chi è stato su Marte fino a pochi giorni fa, si chiama Lust for Life. Dopo questa botta di adrenalina andiamo a calmarci un po' con una canzone spettacolare, bellissima, una delle prime canzoni ecologiste, chiamiamole così, nella storia della musica rock e non solo, direi. Lui si chiama Jackson Browne, ha iniziato giovanissimo la propria attività, dapprima per qualche tempo, poco, con la Nitty Gritty Dirt Band, poi fu predicato anche di essere reclutato, diciamo così, dagli Eagles, e poi si mise in proprio, prima però scrivendo molte molte canzoni che furono interpretate da altri artisti. Infatti il suo primo album si chiama Saturate Before Using, perché appunto era saturato prima dell'uso dalle canzoni fatte da lui per gli altri. Comunque, questo splendido brano che si chiama Before the Deluge è stato registrato al National Stadium di Dublino il 27 giugno del 1994, e ce l'andiamo ad ascoltare. Sono 8 minuti di dolcezza assoluta con un testo tostissimo. I want to invite Paul Brady to come back up here for this song with us. delude. And let the music keep our spirits high. Let the buildings keep our children proud. Let creation reveal its secrets by and by. Thank you, Devlin. Desperado, why don't you come to your senses? You've been out riding fences for so long now. Oh, you're a hard one, but I know you got your reasons. These things that are pleasing you can hurt you somehow. Don't you try. Always your best bet. Now it seems to me some fine things have been laid upon your table, but you only want the ones that you can't get. Desperate. Oh, you ain't getting no younger. Your pain. That's just something we're talking. Your prison is walking through this world all alone. Don't you think it cold in the wintertime? Scholar. before it's too late. E vi avevo detto della collaborazione fra Jackson Browne e gli Eagles. Naturalmente sono arrivati gli Eagles, ma in versione solista, nel senso il solo Glenn Frey che ha terminato il suo concerto di Dublino nel 1997, se ricordo bene, e con questa Desperado, un classico della musica degli Eagles. Ricordo che Jackson Browne è coautore insieme a Glenn Frey di Take It Easy, uno dei grandi, dei primi successi appunto degli Eagles. Nella miriade di bootleg ufficiali che costellano la discografia dei Pearl Jam non poteva mancare una registrazione effettuata a Dublino, e nello specifico al Point, che è un locale dove sono stati registrati anche Bruce Springsteen e R.E.M. che ci siamo ascoltati in precedenza, locale che era un ex deposito dei treni che è stato poi trasformato in sala da concerti. Era il primo giugno del 2000 e ci andiamo ad ascoltare questo pezzo dai Pearl Jam che conclude questa prima parte dedicata a Dublino. Nella seconda parte, come sempre, ci sarà Recorded Today. side. Si chiama Wherever You Are, il brano che ci siamo ascoltati, il brano di apertura del concerto del 8 marzo 2022 scorso, che i Kodalin hanno immortalato nel loro album Our Roots Run Deep, le nostre radici corrono profonde. E come avete sentito è un album acustico molto intrigante, ci sono melodie veramente belle, come anche in questo brano appunto che si chiama Wherever You Are. Feel Come sempre nella seconda parte, come già preannunciato prima, arriva Recorded Today, i brani che sono stati registrati nella giornata odierna nel corso degli anni. E come sempre, ancora una volta, lo dico tutte le volte a costo di essere tedioso, ci sono talmente tanti brani che ci serve un criterio di scelta per far ascoltare i pezzi, e il primo criterio è quello di un brano per ogni decade. E iniziamo dal 1976 con una band che veniva da Dublino ufficialmente, anche se oramai diversi membri non sono della città irlandese, ma nel 1969 iniziarono proprio da Dublino questi Thin Lizzy, grandissima band secondo me molto sottovalutata, ma che ha fatto veramente le cose egregie, almeno fino alla morte di Phil Lynott, che era il bassista, cantante e leader, che morì il 4 gennaio del 1986 per problemi connessi con l'abuso di droga e di alcol. Dopodiché ci sono stati diversi scioglimenti e diverse riunioni che hanno visto naturalmente altri bassisti e un susseguirsi di musicisti che dura tuttora. Il loro primo album si chiama Live and Dangerous, è stato registrato in parte all'Hammersmith Odeon di Londra il 16 novembre del 1976, che è appunto la parte che ci interessa e la parte anche secondo me migliore, con brani tipo quello che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama The Boys Are Back in Town. Loro sono Thin Lizzy dal 1976. L'uso della doppia chitarra solista è sempre stata una delle caratteristiche dei Thin Lizzy, e questa The Boys Are Back in Town è una dimostrazione notevole. Il tutto registrato il 16 novembre del 1976 a Hammersmith Odeon di Londra e contenuto in quel doppio vinile o CD single come, o CD unico come volete voi, che si chiama Live and Dangerous. Rimaniamo all'Hammersmith Odeon, quartiere che si chiama appunto Hammersmith e che ha visto in scena tantissimi concerti. Rimaniamo lì, però cambiamo radicalmente genere musicale, una cosa completamente diversa dai Thin Lizzy. Loro si chiamavano Japan, era un cosiddetto gruppo di art rock, come sempre però queste generalizzazioni e termini lasciano il tempo che trova. Loro venivano da Londra e furono attivi dal 1974 al 1982. Infatti questo album che si chiama Oil on Canvas documenta le 6 serate che alla Hammersmith Odeon portarono alla chiusura della carriera dei Japan, che curiosamente si riformarono nel 1989 per un paio d'anni, ma cambiarono nome, si chiamavano Rain Tree Crew, erano sempre loro ma con un nome diverso. Comunque questo Oil on Canvas è un disco molto particolare, preso alla lunga, onestamente è un po' boring come dicono gli anglosassoni, ma pezzo per pezzo sono veramente notevoli, tipo questo che ci andiamo ad ascoltare, che è uno dei loro grandi classici, Gentlemen Take Polaroid, Japan, 16 novembre 1982. I'd like il basso portentoso di Mick Karn a caratterizzare questa Gentleman Take Polaroid, come del resto quasi tutti i brani dei Japan. Mick Karn era un bassista veramente spettacolare. Japan, Hammersmith Odeon di Londra, 16 novembre 1982, Gentleman Take Polaroid. Per la serie Io C'ero ci spostiamo da Hammersmith a Modena, dalle nostre parti, quindi ultime due date del tour: 16-17 novembre del 1993, ultime due date del tour di Peter Gabriel, che appunto a Modena ha finito questo splendido tour che abbiamo visto, io personalmente il 17, ma a noi oggi interessa il 16. È stato un concerto veramente notevole. Il 17 era l'ultima sera e io ero abbastanza di fianco come posizione, e a un certo punto verso la fine tutta la crew si è messa a ballare, e è stato veramente un bellissimo momento. Per meri problemi di tempo, visto che la pubblicità sta incombendo, devo farvi ascoltare uno dei pezzi più corti ma sempre bellissimo, si chiama Salisbury Hill. My friends would think I Oh, and down. Una delle migliori jam bands americane in assoluto, si chiamano Acoustic UK, sono attivi da tantissimi anni, esattamente dal 1991, vengono dall'Ohio e hanno fatto un sacco di album live, compreso questo che ci siamo ascoltati. Fra parentesi, c'è un sito, non so se lo conoscete, si chiama Live Music Archives, dove potete trovare un sacco di concerti con scarico gratuito, e gli Acoustic UK ne hanno veramente tantissimi. Qui invece è un doppio dischetto che si chiama Under Full Sail It All Come Together. E Under Full Sail è stato il primo album in studio della band e che è stato poi riproposto nel 2007 con riregistrato da capo e riproposto con allegato un dischetto registrato dal vivo in quel di Atlanta, Georgia, il 16 di novembre del 2006. Il pezzo si chiama Walk Real Slow, loro si chiamano Acoustic UK. Vengono dall'Australia, i due fratelli Teschi hanno fondato la loro band che, guarda caso, si chiama Teschi Brothers nel 2008 e sono loro che concludono naturalmente Recording Today ma anche Città Fujiko Live Club di quest'oggi. Dura 8 minuti, abbastanza lungo, e loro fanno una musica che è molto strana per quel che riguarda il continente australiano, l'ho detto che venivano dall'Australia, forse sì, e esattamente da Melbourne, e contrariamente a molti gruppi australiani che sono dediti a un rock abbastanza grezzo, abbastanza rude, così loro fanno della musica soul che ha adepti in tutto il mondo, a dire il vero, e probabilmente molti anche in Australia, come dimostra questo album che si chiama Live at the Forum, che è stato registrato il 16 di novembre del 2019, quindi diciamo fresco più o meno, insomma. Il brano che ho scelto per concludere questa Recorded Today di oggi e questa Città Fujiko Live Club si chiama Paint My Heart, dipingi il mio cuore. Loro sono Teschi Brothers, ma prima vi voglio ricordare naturalmente che vi siete ascoltati Città Fujiko Live Club, 103.1 MHz di modulazione di frequenza stereofonica, più la app che potete trovare sul sito radiocittafusico.it, città naturalmente senza accento. Ogni mercoledì un paio di ore di musica dal vivo che vi propongo, di ogni genere e di ogni epoca. Quindi l'appuntamento per mercoledì prossimo, sempre alle 10.30 all'incirca, e vi lascio appunto in compagnia dei Teschi Brothers. Ciao a tutti da Nevio. live.